Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli e Enrico Letta, che lo avete sentito, probabilmente se no lo potete risentire. Vi ricordo l'intero discorso è già disponibile sul nostro sito radio24.it. Dicevo, Enrico Letta che ha anche parlato di Europa, annunciando l'intenzione di affrontare il tema europeo anche in una chiave di confronto, magari serrato quando è necessario, ma di questo naturalmente avremo, ne sono certo, spesso modo di parlare nei giorni a venire. Intanto, evasione nel mirino di Bruxelles, da qui ripartiamo oggi, al via infatti una piattaforma comune per la lotta contro le tasse non pagate. In campo scenderanno dei veri e propri sceriffi. Sull'onda della crescente pressione dei governi, la Commissione europea lancia un'iniziativa contro l'evasione fiscale. Bruxelles ha varato una piattaforma dove ONG, autorità nazionali, Europarlamento ed esperti si assicureranno che gli Stati membri portino avanti un'efficace lotta alle frodi. La piattaforma sarà composta da 45 membri, tra delegati di alto livello delle autorità fiscali e rappresentanti non governativi scelti dalla Commissione con una procedura aperta. La prima riunione è fissata per il 10 giugno. Gli esperti avranno il compito di monitorare i progressi dei 27 paesi sulle due raccomandazioni in materia di fisco. La prima chiede agli stati di individuare i paradisi fiscali e inserirli nelle loro blacklist. La seconda individua invece strade per bloccare le imprese che evadono. L'iniziativa serve come fonte di pressione sui paesi. Di recente abbiamo osservato un nuovo slancio nella lotta all'evasione, che però deve tradursi in azioni concrete, ha affermato il commissario alla fiscalità Algirdas Semeta. La commissione ha pure rinnovato l'invito a fare in fretta, approvando al prossimo Ecofin il mandato per aggiornare l'accordo sullo scambio di informazioni con i 5 paradisi fiscali extraeuropei, mandato finora bloccato da Austria e Lussemburgo. Vienna tuttavia appare sempre più isolata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'evasione fiscale costa all'Italia oltre 180 miliardi di euro l'anno. Siamo al primo posto dell'Unione. L'iniziativa della Commissione può davvero considerarsi un punto di svolta per mettere alle strette paesi come Austria e Lussemburgo, che non vedono di buon occhio le restrizioni, paesi come il nostro, dove l'evasione è incontrollabile. Naturalmente ci vorrà tempo per valutare questa iniziativa. Intanto la nostra Valeria De Rosa ha chiesto un parere al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, Vittorio Raccamari. Può essere un elemento positivo se ha uno scopo ben preciso, delle regole ben precise ed è voluta da tutti. Io credo che le istituzioni debbano parlarsi tra di loro, gli stati europei debbano ancora di più parlarsi tra di loro, perché mi pare che la situazione economica lo imponga, non tanto perché ci sono dei paesi che vanno meglio e dei paesi che vanno peggio, ma sicuramente perché l'economia dell'Europa oggi ha bisogno anche di regole che siano o che tendano ad essere uguali per tutti. Allora, il cercare di uniformare, per esempio, la tassazione europea permetterebbe, secondo me, di avere anche meno problemi nei singoli stati. Oggi si discute molto del transfer price e quindi della ricerca dell'imprenditore, che è naturale, perché mi sembra naturale, di abbassare i costi. Uno dei costi è la tassazione. L'Italia ha una tassazione altissima. Ritengo che a livello europeo organizzare una tassazione comune sia importante. Tutte le regole economiche dicono più alta la tassazione più c'è l'evasione. Tassazione comune sembra quasi, come dire, una visione sul futuro e anche sul superstato. Vedremo dunque. Ancora una notizia: nonostante tutte le leggi approvate sinora e le azioni condotte per combatterlo, il turismo sessuale continua ad aumentare e l'Europa intera è doppiamente coinvolta in questo fenomeno, sia come regione di partenza che di destinazione dei delinquenti sessuali. Per questo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato all'unanimità oggi una risoluzione con cui chiede a tutti gli stati membri dell'organizzazione di lottare con maggiore efficacia contro una piaga che coinvolge come vittime decine di migliaia di minori in tutto il mondo. Con questa notizia abbiamo concluso. Naturalmente l'appuntamento di Europa 24 torna, anzi non è domani 25 aprile, ma torna dopodomani sempre a quest'ora. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.